طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها. صفقة جاو صفقة جاو. 500 musicisti provenienti da tutta la Toscana stamattina hanno suonato in piazza Santa Maria Novella a Firenze durante la manifestazione La musica contro il silenzio. Non è mancata una rappresentanza di professionisti e studenti aretini. Sono molto felice di essere presente, solo la presenza vuole dire tanto, secondo me, in questo momento, per le vite di bambini, di persone che stanno soffrendo in maniera veramente ingiusta. Quanto è importante la musica in queste iniziative? Beh, si è parlato molto delle parole da usare in queste occasioni e oggi noi siamo qua a fare due note per aiutare chi sicuramente merita. Un'orchestra di 500 elementi, tutti volontari dalla Toscana, e Arezzo ha voluto dire la sua. Sì, lo facciamo con molto piacere e speriamo che questa cosa, associata a tante altre, funzioni. Quanto sono sensibili i giovani a questo tema? Dipende, perché c'è una gran parte di giovani che non si interessa, mentre c'è un'altra gran parte di giovani che invece è molto sensibile. E vogliamo iniziare così con queste interviste, con questa musica, la musica contro il silenzio, per presentare Buongiorno Palestina, 158esima trasmissione su Radio Wombat. Musica, cinema, arti figurative, in quanto aspetti della cultura di un popolo, costituiscono anch'essi strumenti di lotta e di solidarietà nazionale e internazionale. Varie e molteplici sono le iniziative che si sono succedute nelle ultime settimane per Gaza e molte si stanno ancora svolgendo o si stanno preparando. Riguardo alla musica, ne parliamo con esponenti del gruppo Musica contro il silenzio, manifestazione musicale contro l'apartheid e il genocidio, nata a Firenze e diffusa in tutte le città italiane. Le organizzatrici Clarisce Corradi e Alice ne parlano nell'intervista di Claudio. Per quanto riguarda l'arte, vi annunciamo che la mostra itinerante dei disegni dei bambini di Gaza è in arrivo anche a Firenze. La mostra, a ingresso libero, si terrà nei locali del semi-ottagono alle ex murate dal 4 al 16 novembre. Troverete il manifesto con le date e gli orari della mostra nella nostra copertina della trasmissione di oggi. L'inaugurazione avverrà il 4 novembre alle ore 17, arricchito da un buffet. Vi aspettiamo! Dal 26 al 29 a Firenze, al quartiere Isolotto, si è svolta la seconda edizione dell'Eirene Fest, Festival del Libro per la Pace e la Non Violenza. Tre giornate impegnatissime di eventi, assemblee, tavole rotonde e laboratori per ragazzi e presentazione di libri. Ce ne parla Oliver Turquet nella nostra intervista. E ultimo, ma non ultimo, per importanza, è il cinema a Firenze. Firenze che, come abbiamo annunciato nella precedente trasmissione, ha ospitato il Nazareth Short Film Festival all'ex Emerson e ha proiettato 7 film vincitori della rassegna alla presenza della scrittrice Nadia Yacoub, che ha commentato il film e risposto alle domande dei presenti. Nadia Yacoub è autrice, tra l'altro, di un libro dal titolo Gaza on Screen. Vi parleremo di quali short tra i vincitori ci sono sembrati più interessanti. Ma il cinema non finisce qui. Lo spettacolo, collegato al Festival del Cinema delle Donne in corso ancora oggi al Cinema La Compagnia, si è aperto a Gaza con un grande evento, un'utopia realizzata tra le macerie. Si tratta del Gaza International Festival for Human Cinema, rassegna che si sta realizzando dal 26 al 31 ottobre nella striscia, con quello che resta. Il festival si tiene, e questa è la notizia incredibile, a Deir al-Balah, nel cuore della striscia, a metà strada tra Gaza City e Khan Yunis, e a pochi chilometri dal mare. Vi informeremo nelle prossime trasmissioni come vedere i film in concorso. Che il cinema sia cultura di un popolo e strumento di lotta ce lo conferma Basel Adria, vincitore dell'Oscar per il film No Other Land, in un'intervista di Marco da Milano per Rai 3. Il decreto Gasparri. Quello che sta accadendo in Senato è grave e pericoloso. In questi giorni si sta discutendo una proposta di legge presentata da Maurizio Gasparri di Forza Italia, nata ufficialmente per contrastare l'antisemitismo, ma che nasconde anche un progetto molto diverso: usare il tema della sicurezza per mettere un bavaglio a chi critica Israele, soprattutto nelle scuole e nelle università. Il disegno di legge, il numero 1627, recepisce alla lettera la definizione dell'antisemitismo proposta dall'IRA, un documento composto da un testo base che equipara l'antisionismo all'antisemitismo e dà 11 esempi che definiscono cosa sarebbe antisemitismo. Per fare solo un esempio, paragonare i crimini di Israele a quelli della Germania nazista sarebbe considerato per legge antisemita. Basta vedere cosa è successo nel Regno Unito per capire cosa ci si aspetta. Conferenze cancellate, professori indagati, ONG come Amnesty International accusate di antisemitismo per aver detto che Israele è uno stato di apartheid. Ora tutto questo lo vogliono portare anche qui in Italia. L'articolo 2 di questa legge dice che i ministeri della difesa, giustizia, interni, istruzione e università dovranno promuovere corsi obbligatori sulla cultura ebraica e sull'antisemitismo, includendo l'antisionismo. L'articolo 3 del disegno di legge definisce le modalità di segnalazione per prevenire episodi di antisemitismo nelle università e le sanzioni per i docenti che non dovessero ottemperare. Tutto questo sta succedendo oggi nel nostro Parlamento. Intanto, proprio in questi giorni, assistiamo ad incursioni fasciste nelle scuole occupate. Anche in Toscana e a Firenze, nel corso della settimana dal 20 al 25 ottobre, sono stati effettuati o tentati vandalismi in istituti occupati. Si è trattato di soggetti estranei alle scuole. Alliti Meucci, adulti muniti di mazze e pare anche di taser, sono entrati nella scuola e procurato devastazioni e danni per oltre 200.000 euro. Nonostante fosse stata preavvertita da una minaccia annunciata di una probabile incursione, la polizia non ha voluto lasciare un'auto o agenti a presidiare il luogo. Al tecnico Galilei, accanto al Meucci, lo stesso gruppo di vandali ha fatto danni minori, pare per il tempestivo intervento di un carabiniere. Altri individui di un'età sulla ventina si sono presentati con proposte di sfasciamo tutto al Marco Polo, dove sono stati respinti grazie alla presenza di insegnanti e genitori, così come all'ITT Leonardo da Vinci, al Niccolò Rodolico, al Newton di Scandicci, al Virgilio di Empoli e alla Buonarroti di Pisa risultano episodi analoghi. Sarebbe bene saperne di più e muoversi di conseguenza. Il sogno che conduce alla pazzia è la ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già dentro alle notti che dal vino son bagnate lungo le stanze da pastiglie trasformate dentro alle nuvole di fumo nel mondo fatto di città essere contro di ingoiare la nostra stanca civiltà è un Dio che mor nei campi di sterminio, chi è mor con l'autopresa rate, chi è mor coi miti dell'estate, chi è morto, mi han detto che questa mia generazione. Domenica scorsa, 26 ottobre, immagini indegne da Predappio hanno mostrato 1000 persone che hanno sfilato per commemorare il 103° anniversario della marcia su Roma, voluta da Mussolini. In testa le pronipoti del Duce, in coda i militanti di Forza Nuova. Davanti alla cripta, il rito di sempre, il presente, le braccia tese, i saluti fascisti per celebrare una dittatura che ha portato l'Italia alla guerra, alle leggi razziali, ai campi di sterminio. E nessuno ha fermato niente e ha sciolto nulla. Nel paese in cui si manganella, chi manifesta per Gaza, in cui degli agenti si sono presentati a casa di privati cittadini per imporre la rimozione di bandiere palestinesi durante il Giro d'Italia, si lasciano marciare indisturbati i nostalgici del fascismo. Questa è l'Italia, oggi, e non dimentichiamo ciò che è avvenuto nell'ultima settimana. Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato di stile mafioso, una bomba, una punizione, un incendio, scene che raccontano meglio di ogni altra inchiesta lo stato della libertà di stampa in Italia, a cui si aggiunge l'espulsione di Mohamed Hannoun da Milano. E per la rassegna stampa di oggi cominceremo proprio da qui, dal comunicato di API, Associazione Palestinesi Italiani, sull'espulsione di Mohamed Hannoun. A seguire ascolteremo la voce di Mohamed, un padre palestinese a cui le bombe di Israele hanno distrutto quasi tutta l'intera famiglia a Gaza, e che ora è a Firenze ma separato dai figli e vuole lanciare un appello. L'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto, è un Dio che morto nei campi di sterminio, Dio è morto con i miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto, ma penso questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, a una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai crediamo che se Dio muore per 3 giorni e poi risorge, in ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo che faremo. Sabato 25 ottobre Mohamed Hannoun è stato espulso da Milano per la durata di un anno con un foglio di via ricevuto appena sceso da un aereo da Roma. Di fatto sono 2 le notifiche ricevute da Hannoun: l'allontanamento dalla città per un anno e una denuncia per istigazione alla violenza. Mi dispiace di questo atto di aggressione nei miei confronti, mentre il nostro governo è complice diretto del genocidio a Gaza, dove fornisce armi per sterminare i Gazawi, è stato il commento di Hannoun a questi provvedimenti. Leggiamo il comunicato stampa dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, API Italia, su Infopal del 25 ottobre, dal titolo «Nessun foglio di via fermerà la voce per la Palestina», che fa seguito alla notizia dell'espulsione del dottor Mohamed Hannoun dal sottotitolo «Se fermano uno, fermano tutti». Esprimiamo la nostra piena solidarietà al presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, API, l'architetto Mohamed Hannoun, Colpire lui significa colpire chi, da più di 40 anni, vive in Italia come parte attiva della comunità, portando avanti la voce dei senza voce, degli oppressi, di chi non ha mai smesso di credere nella giustizia. Questo atto grave e profondamente ingiusto è un segnale politico che punta a reprimere la libertà di espressione e la solidarietà verso il popolo palestinese che da oltre 76 anni vive sotto occupazione, esilio e apartheid. Siamo all'intimidazione di chi si espone a denunciare con coraggio e coscienza la verità. Aleggia su tutta l'Europa e gli Stati Uniti una pericolosa deriva totalitaria e antidemocratica, capitanata dagli epigoni di un nazifascismo e di un suprematismo biancocentrico mai superato, mai davvero debellato nell'Occidente collettivo intrinsecamente razzista e genocida. Oggi, come sempre, noi denunciamo con fermezza ogni forma di repressione, di censura e di intimidazione. Denunciamo le politiche coloniali di Israele e dell'Occidente suprematista, genocida e razzista, l'occupazione militare della Cisgiordania, l'assedio e il genocidio in corso a Gaza, la continua espropriazione di terre, la detenzione di minori, la demolizione di case e tutte le pratiche che violano sistematicamente il diritto internazionale e la dignità umana. Non accettiamo che la solidarietà venga criminalizzata. Non accettiamo che chi difende i diritti umani venga ridotto al silenzio. Non accettiamo che la parola Palestina diventi un reato. Non accettiamo questo antisemitismo del XXI secolo contro i semiti palestinesi in Palestina e in diaspora. La nostra voce non si fermerà. Continueremo a parlare di Palestina oggi, domani e per sempre. La Palestina è l'avanguardia mondiale dei popoli contro le barbarie israelo-statunitense, perché nessun foglio di via potrà mai cancellare una causa giusta, perché la Palestina vive in ogni voce che resiste, in ogni strada che si riempie di giustizia, in ogni generazione che sceglie di non tacere. Mohammed Hannoun è ogni persona libera che lotta contro l'ingiustizia. È tutti noi. Ascoltiamo ora la voce di Mohammed, giovane padre Gazawi, a cui è stata distrutta buona parte della famiglia e che adesso è a Firenze con i due figli, ma non vive insieme a loro. Quindi lancia un appello. Ascoltiamolo nella versione completa in arabo e la traduzione in italiano. السلام عليكم، أنا اسمي محمد من غزة. فقدت كل عائلتي 17 شخصا. نعم 17 روحا، أمي زوجتي ابنتي إخواتي وأطفالهم كانوا معي والآن لم يعودوا هنا. لم يتبقى لي سوى طفلين، عدي 9 سنوات، حروق في 45% في جسده، صدمة هائلة بعد أن رأى أمه ممزقة أمامه، وإبراهيم عامين مصاب عصب في ساقه المقطوع وشظايا في رأسه. لماذا يجب أن يكبروا أطفالي بلا حضن أمهم؟ كل يوم يسألني عدي: بابا أين أمي؟ هل ذهبت ولن تعود؟ اليوم يقولوا الحرب في غزة انتهت، لكنني أسأل: هل انتهت الحرب حقا؟ هل انتهى الآلام؟ هل انتهى الفقدان؟ لا لن ننتهي، الحرب ما زالت تعيش في قلوبنا، في دموعنا، في عيون أطفالنا. لقد أبادت غزة آلاف بل مئات الآلاف من الشهداء، مئات آلاف من الأيتام، من الجرحى، من الأسرى. يقولون انتهت الحرب، كفي أيها العالم، كفي صمتا، كفي توريطا مع إسرائيل. إسرائيل قتلت أطفال والنساء والشيوخ والشباب، دمرت كل غزة، دمر كل شيء. ربما توقف الطائرات، لكن قلوبنا ما زالت تحترق، بيوتنا مهدمة، نعيش في خيم تحت الشمس الحارق، تحت المطر. عن أي سلام تتحدثون؟ الحرب لم تنتهي، إنهم تحترق في داخلنا، في داخل أطفالنا. اليوم أنا في إيطاليا، ليست سائح بل أب يحاول إنقاذ أطفاله، لكن حتى هنا الحرب تطاردني. لقد سلبوني حقي في احتضان ابني إبراهيم، هو في مكان وأنا في مكان آخر. بأي حق؟ أين الإنسانية؟ أين العدالة؟ أين العالم؟ أقول لكم: لا تصمتوا، قولوا الحقيقة، انشروا قصتي، اخبروا العالم بما فقدنا وكيف دمرنا. لا للصمت توريطا في الجريمة. Mi chiamo Mohammed e vengo da Gaza. Ho perso tutta la mia famiglia. 17 persone. Sì, 17 vite. Mia madre, mia moglie, mia figlia, i miei fratelli e i loro bambini. Erano con me, ora non ci sono più. Mi sono rimasti solo 2 figli. Addi, 9 anni, ustioni sul 45% del corpo e un trauma enorme dopo aver visto sua madre fatta a pezzi. E Ibrahim, 2 anni. Nervo della gamba reciso, scheggi nella testa. Perché? Perché i miei figli devono crescere senza l'abbraccio della loro mamma? Ogni giorno Addi mi chiede: papà, dov'è la mamma? Non c'è più? Oggi dicono: la guerra a Gaza è finita. Ma io chiedo: davvero è finita la guerra? È finito il dolore? È finita la separazione? No, non è finita. La guerra vive ancora nei nostri cuori, nelle nostre lacrime, negli occhi dei nostri figli. Gaza è stata sterminata. Migliaia, anzi centinaia di migliaia di morti, centinaia di migliaia di orfani, di feriti, di prigionieri. E voi dite: la guerra è finita? Basta mondo, basta silenzio, basta complicità con Israele. Israele ha ucciso bambini, donne, anziani, giovani, ha distrutto tutto. Forse gli aerei si sono fermati, ma i nostri cuori bruciano ancora. Le nostre case sono distrutte. Viviamo in tende, sotto il sole cocente, sotto la pioggia. Ma di quale pace parlate? La guerra non è finita. Brucia dentro di noi, dentro i nostri figli. Oggi io sono in Italia, non come turista, ma come padre che cerca di salvare i suoi figli. Ma anche qui La guerra mi insegue. Mi hanno tolto il diritto di abbracciare mio figlio Ibrahim. Lui è in un posto e io in un altro. Con quale diritto? Dov'è l'umanità? Dov'è la giustizia? Dov'è il mondo? Vi dico, non tacete, dite la verità, diffondete la mia storia. Fate sapere al mondo cosa abbiamo perso e come siamo stati distrutti. Perché il silenzio è complicità nel crimine. Diamo voce ai titoli della rassegna stampa di Alessandra Micozzi sul sito Cultura e Libertà di questa settimana. Troverete i link sul blog della trasmissione Buongiorno Palestina di oggi. Il vero costo per Israele del genocidio di Gaza di Ramzi Baroud su Arab News, traduzione di La Zona Grigia. Niente potrà mai ripulire con successo l'immagine di uno Stato che ha commesso un genocidio così apertamente. L'istruzione dovrebbe essere un diritto inviolabile di Said Absul per We Are Not Numbers, non siamo numeri. Come potranno gli studenti di Gaza realizzare i loro sogni quando la guerra ha distrutto le infrastrutture educative, ha detto Said Absul. Belle storie di donne e uomini in foto da Untold Palestine, testi in inglese. Al di là della morte, mia madre mi ha detto che questo genocidio finirà, di Ahmed Drembli su Middle East Eye. Prenditi cura di te e delle tue sorelle, Habibi Ahmed, disse dolcemente mia madre. Io risposi, a presto. L'irresistibile escalation delle guerre di Raul Zibecchi su comune.it.net. Il capitalismo sta moltiplicando le guerre perché è l'unico modo in cui può sopravvivere. Ancora una volta la domanda è cosa faremo noi, quelli di noi che si definiscono anticapitalisti, scrive Raul Zibecchi. la distruzione fisica ed ecologica di Gaza da parte di Israele, di Maung Zarni su Forces of Renewal South East Asia. Oltre alla distruzione della popolazione, gli artefici del genocidio israeliano a Gaza hanno evidentemente fatto dell'ambiente il loro obiettivo di distruzione fisica per renderlo invivibile. La marea si sta finalmente rivoltando contro Israele? Di Ramsi Barud su Palestine Chronicle Italia. Il sangue prezioso di centinaia di migliaia di innocenti palestinesi a Gaza merita che la storia venga finalmente cambiata. Marada! Pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza. Traigo en la boca el gusto acre de la pólvora y en el pecho la memoria de los que no volvieron, de las madres que miran el cielo buscando nombres. No somos espectros, somos manos, somos panes, somos canciones. Los que siembran odio recogerán su cosecha de fracaso. No es venganza lo que pedimos, sino justicia. No es odio lo que blindará nuestras filas, sino humanidad. El sionismo no pasará. Los pueblos que resisten jamás serán vencidos. La esperanza se alza y la vida ganará. La muerte que se alimenta de odio al fin quedará sin fuerza. Desde las olas del Mediterráneo hasta las llanuras y las colinas, las voces que gritan por Palestina son la voz de la humanidad. No aceptamos la impunidad que compra silencio con poder. No aceptamos que se convierta el dolor en mercancía de unos pocos. Capitales que se enriquecen con la guerra. Sus fortunas están hechas de lágrimas y las lágrimas también pesan. La historia juzgará a quienes empuñaron la codicia contra la vida. Los que aman la libertad marcharán con los desposeídos. El sionismo no pasará. Venceremos. Solidaridad con la tierra donde los niños aún sueñan. Venceremos. Venceremos. Manos unidas, corazones en alto. La dignidad florecerá. Noi della musica contro il silenzio siamo pronti. Nel mese di giugno abbiamo attraversato l'Italia da nord a sud. In 26 piazze abbiamo portato la nostra voce, la nostra musica e la nostra arte. Abbiamo cantato il nostro dissenso contro il genocidio in atto a Gaza e in tutta la Palestina. Un massacro contro l'umanità intera, provocato dalla politica criminale di Netanyahu e di Israele. Un massacro che parte da lontano, che continua inesorabile sotto gli occhi del mondo. A luglio abbiamo lanciato un appello europeo, raccolto da tanti paesi. È nato un movimento culturale, apartitico, che si affianca a tutte le realtà che da sempre lottano per i diritti del popolo palestinese. Un movimento che attraversa confini e che dice forte e chiaro: basta silenzio, basta complicità, basta genocidio. E con questi strumenti di civiltà noi difendiamo il popolo palestinese e i suoi diritti fondamentali. La nostra voce non si spegnerà, la nostra musica non si fermerà. La Palestina non è sola. Musica contro il silenzio è un gruppo musicale che abbiamo conosciuto in un concerto quest'estate in piazza Santa Maria Novella. È stato un evento che ha destato un grande successo, entusiasmo e sorpresa. Ma cos'è veramente Musica contro il silenzio? Quando è nata e con quali programmi? Ce ne parlano Alice e Clarisce, organizzatrici del gruppo, nell'intervista di Claudio. Musica contro il silenzio. Questa è stata una piacevolissima sorpresa di quest'estate, cioè l'iniziativa che ci fu in piazza Santa Maria Novella di un gran numero di musicisti che fecero un concerto per la Palestina, per Gaza in particolare. Ecco, ce ne volete parlare di come siete nati, che cos'è Musica contro il silenzio? Sì, allora, Musica contro il silenzio è un movimento che ha riguardato tutta l'Italia, che ha coinvolto 26 città italiane organizzando delle manifestazioni, non proprio dei concerti, ma proprio delle manifestazioni di protesta, coinvolgendo tutto il mondo musicale italiano, non solo i professionisti, ma è stato un evento aperto a tutti della musica, anche amatori e studenti, e abbiamo organizzato, appunto, è nato a Firenze. Da Firenze è partito un passaparola nelle varie orchestre in realtà italiane e hanno aderito appunto altre 25-26 città organizzando queste manifestazioni a sostegno del palestinese, in cui appunto a interventi musicali significativi si alternavano degli interventi di letture, di poesie. Interventi a Firenze è intervenuta per esempio Micaela Frulli, docente di diritto internazionale presso l'Università di Firenze, musicisti palestinesi. E quindi, quindi sono stati coinvolti sia professionisti che dilettanti o anche studenti? Sì, esatto. Proprio era aperto a tutta la cittadinanza, poteva portare il proprio strumento, anche strumenti semplici, per partecipare in maniera sonora, diciamo, a dare voce al popolo palestinese in un momento in cui ancora si parlava un po'. Ecco, delle orchestre di Firenze, quali sono quelle che hanno, diciamo, non so se hanno partecipato tutte per intero, ma comunque quelle che sono state interessate a questa iniziativa, quali sono state? Allora, diciamo che abbiamo partecipato tutti come singoli, non come orchestra in sé, però ci sono stati molti musicisti dell'Orchestra della Toscana, dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, e poi appunto musicisti di vari ensemble, musicisti di ogni genere, età, quindi insomma appartenenti a realtà diverse, però che si tenevano a partecipare proprio come individuo e non come facente parte di una realtà specifica. Ci siamo ritrovati tutti insieme, la realtà che abbiamo creato è stata una nuova, diciamo, come comunità musicale di Firenze. Ecco, ma poi avete fatto anche delle iniziative recenti che come proprio come Musica contro il silenzio? Allora, di recente a Roma abbiamo fatto una manifestazione nazionale perché precedentemente avevamo lanciato un appello ad altri stati che hanno seguito il nostro esempio e quindi sono scesi in piazza in Svizzera, in Svezia, in Germania, proprio per continuare a manifestare attraverso la musica come messaggio universale molto potente il dissenso nei confronti del silenzio o delle istituzioni o anche della complicità delle istituzioni. Per cui noi a settembre siamo scesi di nuovo in piazza a Roma, una città che ha vinto tutte le altre italiane, e abbiamo nuovamente manifestato la nostra solidarietà verso il popolo palestinese. Ecco, questo modo di manifestare è avvenuto in forma, scritta, in forma musicale, in forma di che tipo di manifestazione si è trattato? Sì, una manifestazione musicale, appunto, diciamo che la voce con cui ci si verrà è quella della musica. Appunto abbiamo scelto dei brani come Lacrimosa di Mozart, che abbiamo dedicato appunto a tutte le vittime del genocidio, ma anche nella manifestazione a Roma l'inno alla gloria di Beethoven come simbolo di fratellanza fra popoli, in particolare fra quello italiano, che comunque si è schierato molto chiaramente a difesa del popolo palestinese, e tutti brani appunto molto significativi, dei brani palestinesi, proprio perché ci teniamo comunque anche attraverso la a dare voce alla cultura palestinese, che invece viene lentamente cancellata e dimenticata. Ecco, e di recente nella zona, nel Fiorentino, avete fatto degli eventi o organizzato qualche cosa? Sì, allora, siamo passati adesso a dei veri e propri concerti a sostegno di una raccolta fondi che abbiamo organizzato per aiutare tre musicisti palestinesi che sono Ahmed, Sami e Fouad, che hanno dei bellissimi progetti musicali in Palestina, soprattutto coinvolgono i bambini, coinvolgono la comunità, e nonostante tutte le gravose difficoltà degli sfollamenti e del genocidio, cercano sempre con la musica di portare speranza a chi hanno accanto. E noi stiamo cercando quindi di organizzare dei concerti per raccogliere fondi. Di recente, lo scorso 24 ottobre, abbiamo suonato io, che sono Clarice, insieme ad altri miei colleghi, in Quintetto d'Archi, in una chiesa appunto a Sieve. C'è stata una bellissima partecipazione e abbiamo raggiunto una cifra di 500 euro. Il prossimo, replicheremo questo concerto, che vede un quintetto di Mozart e un quintetto di Mendelssohn per due viole, due violini e violoncello, e replicheremo a Castiglione del Lago in Umbria il 10 di novembre, quindi a breve. Ecco, parlatemi di questa iniziativa di Pontassieve, dove si è tenuta la cosa? Nella chiesa di Pontassieve? Allora, si è tenuta nella chiesa di San Michele Arcangelo a Pontassieve, quindi in collaborazione col comune di Pontassieve, la Molto Contro il Silenzio e il comune di Pontassieve hanno collaborato per dare vita a questo evento, e quindi eravamo cinque musicisti, e c'è stata grande affluenza, quindi siamo stati molto felici del fatto che ci sia stata una così bella risposta, e abbiamo anche letto delle parole dei musicisti palestinesi che hanno voluto dedicare un messaggio proprio a noi della musica contro il silenzio per l'aiuto e il supporto che stiamo cercando di dargli da lontano. E quindi la gente, molto anche diciamo, gli astanti, il pubblico come ha reagito? Ve lo siete sentito vicino? C'era molta gente nella chiesa? O com'è andata? No, il pubblico è stato molto, molto partecipativo, sono stati molto attenti sia durante la lettura e la spiegazione, diciamo, di cosa è il movimento, di come è nato, e la lettura di questi messaggi da parte dei musicisti palestinesi, e poi durante il concerto c'è stata una grande vicinanza. Anche successivamente al concerto abbiamo avuto modo di parlare con qualcuno del pubblico che chiedeva magari informazioni aggiuntive, che ha espresso gratitudine. Molti del pubblico sono stati veramente entusiasti e grati di aver potuto partecipare a una serata di questo genere, quindi ci auguriamo di poter replicare ancora in modo tale da raggiungere ingenti somme per poterle dedicare a chi ha bisogno, ai musicisti molto meno fortunati di noi. Bene, allora se avete qualche cosa altro da dirci, volentieri. E comunque diteci, per quanto riguarda le vostre prossime iniziative, dove dobbiamo rivolgersi. Avete un sito, un luogo, delle locandine, che cosa? Allora, noi abbiamo la pagina Instagram e pagina Facebook, su cui pubblichiamo tutte le prossime iniziative delle varie città che stanno aderendo appunto a questa proposta di concerti di beneficenza, e appunto ci sarà questa a Castiglione, il 15 novembre a Roma, un altro concerto di beneficenza, e poi piano piano ne pubblicheremo anche altri, appena saranno confermati, altre iniziative per in qualche modo essere partecipi della causa anche a livello musicale, che è importante utilizzare l'arte per sostegno di una causa simile. Grazie Alice e Clarice, vi ringraziamo molto e staremo molto attenti alle vostre prossime iniziative. Grazie e buona giornata. Grazie. Grazie. Dal 26 al 29 ottobre a Firenze, al quartiere dell'Isolotto, si è svolta la seconda edizione delle Irene Fest, Festival del Libro per la Pace e la Non Violenza. Tre giornate impegnatissime di eventi, assemblee, tavole rotonde e laboratori per ragazzi, svoltesi alla Biblioteca dell'Isolotto, alle Baracche Verdi e per finire al Centro Sociale Il Pozzo, quello di Don Santoro. Tra la proiezione del docufilm Inchiesta su Danilo Dolci, per la regia di Alberto Castiglione, Alexander Langer e la presentazione del libro di Alessandro Raveggi e lo spettacolo Scalpiccii sotto i platani con Elisabetta Salvatori, che ci ha riportato ai misfatti di Sant'Anna di Stazzema, ci ha sorpreso la presentazione del libro dal titolo Samudari Pen, un altro giorno della memoria, di Andrea Vitello. Libro sul genocidio dei Rom e dei Sinti nella Seconda Guerra Mondiale. Ascoltiamo l'intervista di Oliver Turquet. Buonasera, sono al Centro Sociale Il Pozzo con Oliver Turquet in attesa della presentazione di un libro abbastanza particolare perché riguarda lo sterminio dei Rom e dei Sinti. E questa cosa è abbastanza interessante anche perché, diciamo, ora, dopo 2 anni di genocidio della Palestina, dei palestinesi, si è aperto un po', diciamo, un vaso di Pandora. Nel senso che anche altri stermini, altri genocidi vengono alla luce, mentre per anni sono stati nascosti. E intanto ti volevo chiedere, Oliver Turquet è anche organizzatore dell'Irene Festival, che si chiude oggi, tra l'altro, e volevo sentire dalle sue parole come è andata. Bene, allora intanto grazie. Sì, l'Irene Fest è giunto alla sua seconda edizione fiorentina, edizione locale, Quest'anno abbiamo in tutta Italia una quindicina di edizioni locali, perché abbiamo pensato che lavorare sul territorio, lavorare dalla base sociale sia una cosa importante. In questo festival abbiamo privilegiato le figure di due autori importanti, non per fare celebrazioni, ma proprio per ispirarsi dalle figure di Danilo Dolci e di Alex Langer. Quest'anno il festival è stato non solo all'Isolotto come l'anno scorso, ma anche qui alla Comunità delle Piacce, al Centro Sociale del Pozzo, e siamo molto contenti di questo ampliamento sempre verso le periferie di Firenze, non il centro plastificato della città. E in particolare oggi qui alle Piagge abbiamo, appunto, come hai accennato te, il libro Antologia curato da Andrea Vitello, che si intitola Sul Samura di Pen, che è uno dei nomi con cui si caratterizza la giornata della memoria per lo sterminio dei Sinti e dei Rom nella Seconda Guerra Mondiale. Come hai detto te giustamente, sembra che ci siano genocidi di serie A e genocidi di serie B, e invece noi pensiamo, come non violenti, e che tutti gli esseri umani sono importanti in qualunque luogo geografico, politico, storico vivano. In questo caso mi viene in mente, per esempio, di ricordare la causa del popolo saharawi, per dire un'altra causa dimenticata, o il disastro che sta succedendo, forse ancora peggio di Gaza, purtroppo, in Sudan, perché il numero di morti lì è ancora più elevato di questa cosa terrificante di questo esercito stato criminale, sì, come è Israele. Sì, tra l'altro, a questo proposito, il secondo evento dopo questa presentazione di questa proposta, di questa antologia che ha curato Andrea Vitello, come dicevo prima, e che riguarda la proposta di legge di istituire il Samura di Pen come giorno della memoria, diverso dal giorno della memoria, diciamo, classico della Shoah, il 2 di agosto. La seconda evento che c'è oggi pomeriggio è un altro evento significativo, appunto, tornando invece al tema della Palestina, perché è la prosecuzione e l'ampliamento della campagna che stiamo facendo con una serie di persone in giro per l'Italia, che è la campagna per dichiarare il Medio Oriente zona libera di armi nucleari, e quindi dare un altro contributo a una possibile pace giusta in Palestina. E poi concluderemo, appunto, la giornata con un altro omaggio a Alex Langer, presentando un altro dei libri che sono stati fatti su di lui. Come sai, c'è anche già un comitato che si sta occupando di rendere, diciamo, pubblico e anche ufficiale la giornata della Nakba. Esattamente, questo è un altro tema che ci sta a cuore. Su questo piano vorrei anche ricordare, in questo caso parlo come Multimedia, come associazione editoriale senza fine di lucro, che recentemente ha pubblicato e diffuso questo libro dei combattenti per la pace, cioè di una delle tante associazioni israelo-palestinesi che da anni lavorano insieme. Tra l'altro, erano qui con noi l'anno scorso, come, certo, sappiamo bene io e te, sì, e lo ricordo per gli ascoltatori, tu lo sai benissimo, che la prefazione del libro è di Luisa Morgantini. Quindi anche questo fa parte del nostro impegno, come Irene Fest, come Multimage, per l'autodeterminazione dei popoli, per i diritti umani di tutti i popoli, senza se, senza ma, e anche per immaginare, io credo che questa sia la cosa più importante, il lemma, lo slogan di questo festival è un vecchio slogan, famoso ma sempre valido: se vuoi la pace, prepara la pace. E questo è quello che noi portiamo avanti con Irene Fest, no? Ci sono state queste meravigliose manifestazioni, lo sciopero e tutto quanto, per affermare a livello popolare che ora basta, come dire, nunca massa, direbbero, sul dramma di Gaza. Però queste manifestazioni vanno benissimo, sono fantastiche, però bisogna anche pensare che la pace si costruisce attraverso la non violenza, e la non violenza è un percorso, è un cammino lungo. È un cammino lungo, un cammino complesso, un cammino di riconoscimento della violenza dentro di noi e della sua trasformazione in un'azione non violenta. Ti ringrazio. Grazie a te. Siamo ora alla rubrica cinema. Per il Nazra Short Film Festival, tra i film vincitori, ne citiamo, per mancanza di spazio e brevità, solo due che hanno destato il nostro particolare interesse. Uno è Vibration from Gaza, diretto da Rehab Nazal, un documentario di 16 minuti. Il documentario tratta delle esperienze dei bambini sordi di Gaza. Nati e cresciuti sotto assedio, Hamani, Musa, Isra e altri forniscono vividi racconti dei bombardamenti e della presenza costante di droni nel loro cielo, degli attacchi missilistici sentiti attraverso le vibrazioni dell'aria, del tremore del terreno e della risonanza degli edifici che crollano. Il film si interroga sull'origine della loro perdita di udito. Per la sezione fuori concorso è stato presentato Face Under Fire, diretto da Raja Khaled Ayesh, prodotto da Palestina, Gaza e della durata di 6 minuti. Un film, uno short film del 2024. Il film racconta la storia di Yusuf, un giovane di Gaza che lavora come clown per i bambini durante il genocidio in corso. Yusuf si impegna a portare il sorriso sui volti dei bambini nonostante le difficoltà quotidiane che incontra per procurarsi cibo e acqua e per sopportare le dure condizioni della tenda in cui vive, circondato dal costante rumore degli spari. Dopo che sua moglie e suo figlio sono stati evacuati in Egitto a causa della guerra, Yusuf affronta la solitudine e la nostalgia del figlio, che vede nei volti degli altri bambini, aggravando il suo dolore emotivo. Con lo svolgersi degli eventi, il conflitto interiore di chi vive a Gaza diventa sempre più evidente. E come vi abbiamo accennato nella presentazione, dal 26 al 31 ottobre, un grande evento di cinema iniziato a Gaza, da due giorni, un'utopia realizzata tra le macerie. Si tratta appunto del Gaza International Festival for Human Cinema, che si sta appunto realizzando con quello che resta della striscia. Il festival, abbiamo già detto, si tiene a Deir al-Balah, nel cuore della striscia, a metà strada tra Gaza City e Khan Yunis e a pochi chilometri dal mare. È un festival nato in condizioni che dovrebbero rendere impossibile anche solo pensare di fare cultura. E invece la cultura accade. Il festival è prima di tutto un gesto civile e politico, un modo per affermare che la vita, la memoria e la creazione non si possono bombardare. 79 film provenienti da 28 paesi, tra lungometraggi e cortometraggi, fiction e documentari, raccontano le vite, le voci e le lotte delle donne. Autrici, autori, tecniche e tecnici scelgono di non interrompere il racconto. E quando questo racconto si compone di 79 film, diventa un vero e proprio coro. Voci di lavoro, di maternità, di corpo, di amore, di libertà. Sguardi intimi e collettivi, frammenti di dolore e di speranza. È forse la definizione più alta di resistenza culturale. Il film di apertura della rassegna è stato The Voice of Hindi Rajab di Kauter Ben Hania. Il cinema non può riportare Hind in vita, né cancellare l'atrocità commessa contro di lei. Niente potrà mai restituire ciò che le è stato portato via. Ma il cinema può preservare la sua voce, farla risuonare oltre i confini. La sua voce continuerà a echeggiare finché non si renderanno conto, finché non sarà resa giustizia. Questo ha detto la regista premiata con il Leone d'Argento al Festival di Venezia. E parlando di cinema palestinese, non possiamo non ascoltare ora la voce di Basel Adra, vincitore dell'Oscar per il film Noaderland, intervistato da Marco da Milano nella trasmissione Il cavallo e la torre. Grazie, buongiorno, ciao, prego. Grazie. Basel, grazie. E la prima domanda è: come stai vivendo questi giorni? Abbiamo visto nei giorni scorsi le scene di esultanza, di gioia a Gaza, ma cosa sta avvenendo in Cisgiordania? Innanzitutto abbiamo accolto con favore il cessate il fuoco a Gaza. È molto importante che questo brutale genocidio sia stato fermato dopo 2 anni. Anche se ieri alcuni palestinesi sono stati uccisi dalle forze di occupazione israeliane. Spero che questo cessate il fuoco duri. La popolazione di Gaza non deve subire di nuovo questa brutalità e questo massacro. Si sta parlando in questi giorni di fine della guerra, di inizio della pace, di evento storico, addirittura di un evento che non si vedeva da 3.000 anni, ha detto Trump. Quali sono le prospettive? Non credo che questo sia un accordo storico. Quello che è accaduto in questi giorni sarebbe dovuto accadere molto tempo fa. L'Occidente, l'Europa, l'America hanno fallito. Penso che il sistema creato dopo la Seconda Guerra Mondiale per proteggere le vite umane sia fallito. È brutale vedere come è crollato in questi 2 anni. Hanno permesso il genocidio, lo sostengono, lo finanziano con i loro soldi. Il governo italiano, gli altri governi europei, il governo americano, tutti inviano armi a Israele. Quindi ora basta con questi massacri. Questo accordo non è un fatto storico e non riguarda la pace. L'ultima scena di Noaderland è esattamente 2 anni fa, quando sparano a tuo cugino. Vorrei chiederti com'è cambiata la vita dei palestinesi in questi 2 anni. In Cisgiordania la situazione è disumana. Tutto è diventato folle. La violenza dei coloni ha fatto registrare i numeri più alti a Masafer Yatta, dove vivo, con almeno 9 nuovi avamposti illegali creati dai coloni israeliani. Ci sono comunità palestinesi che vengono spazzate via. Masafer Yatta l'hanno distrutta completamente. Vedrete l'espansione degli insediamenti e degli avamposti israeliani crescere sul territorio e le comunità palestinesi scomparire. Gli attacchi brutali dei coloni israeliani uccidono la mia gente. Hanno sparato a mio cugino. Hanno ucciso 2 mesi fa il mio migliore amico. Era come un fratello, era un insegnante, è stato un padre straordinario, era un attivista e loro gli hanno sparato a sangue freddo. Questa cellula di coloni è libera e impunita. Israele deve pagare le conseguenze dei suoi crimini, di questa apartheid. Solo così saranno costretti a cercare un'altra strada. Ma se continuate a dare loro armi, soldi, ad avere ottime relazioni con loro, possono volare qui in Italia e giocare persino una partita di calcio. Nei vostri paesi gli è concesso tutto. Hanno le porte aperte e gli viene fornito tutto quello che gli serve per commettere questi crimini. لف بالقرية 7 دقائق. هاي قصة عن القوة وكبرت عليها. Oggi si dice Tony Blair potrebbe essere il capo del Board of Peace per Gaza. Menzionare Tony Blair nel nostro film non significa ripulire la sua storia. È stato complice dell'uccisione, dell'assassinio di migliaia di persone innocenti in Iraq, dei nostri fratelli e sorelle che vivono in Iraq. Ricordare la sua storia in No Other Land vuol dire raccontare una storia vera per dimostrare che gli europei, quando dicono che è tutto merito degli Stati Uniti, stanno mentendo. Anche loro hanno potere e potrebbero usarlo per costringere Israele a fare qualcosa. Se vogliono, possono farlo. Possono costringere Israele a rispettare il diritto internazionale. Ti chiedo anche, con Trump si sono schierati i principali paesi arabi. Noi abbiamo visto a Sharm el Sheikh l'Egitto, il Qatar, la Turchia e esponenti dell'Arabia Saudita hanno tutti firmato quella dichiarazione in cui non si parla dello Stato palestinese. Perché vi sentite abbandonati anche da loro? Questo non è un accordo di pace, perché, come dicevo, in questo modo si ferma solo il genocidio e siamo contenti. Ma con questo accordo non si parla delle radici del problema. L'occupazione iniziata decenni fa continua. Questa non è una soluzione per noi palestinesi, è solo una questione di tempo e vedremo il secondo atto della loro violenza. Come hai vissuto le piazze italiane che si sono riempite per Gaza, la Global Summit Flottiglia, e che cosa vuoi dire oggi a chi sta manifestando? Credo che la ragione principale che ha spinto Trump a costringere Netanyahu ad accettare l'accordo siano state le proteste che abbiamo visto in tutto il mondo. Le gesta della flottiglia, l'impegno degli attivisti, del popolo italiano, tutte le persone in piazza in Europa, negli Stati Uniti, gli studenti nelle università. Tutti hanno fatto pressione su questi leader criminali affinché Netanyahu fermasse questo genocidio. Ma bisogna usare lo stesso potere su Netanyahu perché ponga fine all'occupazione e al sistema di apartheid. Lo devono fare tutti i leader dei paesi arabi, dei paesi europei e gli Stati Uniti. Come è cambiata la tua vita dopo la vittoria del premio Oscar? La mia vita non è cambiata affatto. Vivo ancora la stessa realtà. La mia casa è stata invasa dalle forze di occupazione israeliane diverse volte. Anche dopo l'Oscar sono stato attaccato con i miei fratelli nella nostra terra. L'Oscar non cambierà la nostra realtà. Io come giornalista e regista cerco di trasmettere questo messaggio al mondo, cercando che qualcuno faccia qualcosa per fermare questi crimini. E spero che questo messaggio raggiunga milioni di persone qui in Italia e nel mondo, in modo da avere sempre più persone al nostro fianco. Nel film dici non ci sono popoli nati per essere oppressi, ci vorrà tempo ma alla fine vinceremo noi. Che cosa significa vincere? Winning is to have better life. Vincere significa avere una vita migliore, un futuro migliore, avere la libertà. Mia figlia e i miei amici, i figli di chi è stato ucciso, non dovranno affrontare la stessa vita che stiamo affrontando noi oggi. E mi auguro davvero che la loro vita possa essere migliore di quella che stiamo vivendo noi oggi. Voglio solo dire alle persone in Italia e nel mondo che il cessate il fuoco è positivo, ma non è la soluzione per la nostra causa. Abbiamo quindi bisogno che continuiate a sostenerci con le vostre attività nelle strade. Fate ancora tutto il possibile per continuare la lotta e fermare questi crimini. Grazie. Que nadie robe la palabra humano, ni convierta la justicia en mercancía. Veremos las calles llenas de pasos que reconstruyen, no de botas que arrasan. Veremos escuelas, pan en las mesas, hospitales abiertos al sol. No es utopía, es tarea común y cada gesto cuenta como arma de vida. Por cada ceniza sembremos un árbol, por cada lamento, un himno. El sionismo no pasará, venceremos, porque la dignidad humana no se negocia ni se somete. Venceremos, venceremos, la justicia triunfará, la esperanza será ley, los pueblos libres se escribirá en el mañana. Por Palestina, por todos los pueblos que resisten, por la vida que no se rinde. Prima di chiudere questa nostra trasmissione di oggi, vi ricordiamo che la mostra itinerante dei disegni dei bambini di Gaza in arrivo a Firenze si terrà nei locali del semiottagono alle ex murate dal 4 al 16 novembre. Troverete il manifesto con le date e gli orari della mostra nella nostra copertina. L'inaugurazione avverrà il 4 novembre alle ore 17. Vi aspettiamo! Ed era questa la nostra ultima notizia e con questa vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 12 novembre, sempre alle 17.30, sempre su Radio Wombat. Inshallah! راح ترجع بلدي كلها راح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الاحرار صاحب القرار صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان جان لا صفقة ظل ولا صفقة عار فلسطين عربي يا احرار فلسطين عربي يا احرار